Musiche, le poesie, l'arte, l'agenda culturale italiana ed europea. Presentata da Radio Alma e condotta in studio da Mary D. Con la partecipazione straordinaria di Georges Laurent. Regia di Danny M. Cari amici, care amiche. L'ho detto! Cari amici, cari amiche. Qua Fiordaliso al microfoni perché Mary D e Georges Laurent stanno ancora pensando un po' con Liliana Ugolini e stanno ancora discutendo sulle tante cose fantastiche dello special del Brussellando che potrete ascoltare sul podcast. Beh, adesso insomma abbiamo fatto un piccolo scoop qui con Fiordaliso, io sono Stefano e quindi ci siamo appropriati dei microfoni, questa è la realtà. È molto bello, avete occupato i microfoni di Radio Alma, ma molto molto bene, mi piace questo inizio, questa sera. Beh, visto che il tempo è importantissimo in radio, come diciamo prima con Daniele. Tempo, Tyrannosaurus Rex. E quindi visto che noi vogliamo fare il miglior uso del Rex, io direi che Fiordaliso potrebbe immediatamente iniziare per poi andare avanti con le nostre rubriche. Oh, che proposta. Mi manca un attore però, quindi quindi è un po' problematico. Però, cioè, prima di tutto, sorpresa sorpresa, ma non parlerò di Paolo Coelho, anche perché semplicemente lo sto portando. Ho una maglietta con una citazione scelta da Paolo Coelho e che si vende dentro i negozi di Mango. E ovviamente i ricavi vanno in beneficenza. E siccome parliamo di teatro, parlerò stavolta di un pezzo teatrale, uno dei miei preferiti, e stranamente e straordinariamente ne parlerò solo di una. Solo di una, ma dai! Solo di una, benvenuta! Oh, eccomi qui, cari amiche, cari amici, Mary D ai microfoni qui questa sera. Volevo provare a mettere in scena un radiodramma. George, mi senti? Ci sei? Pronto, pronto. Pronto? C'è un disturbo in linea? Pronto, una antenna, volante 1, volante 2, trovate i guanti in similpelle. No, io stavo dicendo che stavo pensando ad una possibilità di organizzare un radiodramma, così recitiamo la radio nella radio. Sì. Che ne dici? Una sì. Di queste sere ci prepariamo uno speciale? Ma non questa sera. No, questa sera. Bene, noi siamo qui. Questa sera credo che sia il Librangolo che ci offre. Il Librangolo offrirà tutti gli spunti di riflessione. Questa sera siamo completamente alle tue mani. C'è un pezzo teatrale, credo. Prima vi spiego di che cosa si tratta. Dai. Si tratta del Romolo il Grande di Friedrich Dürrenmatt. Cioè, così come lo chiama lui, è una commedia storica antistorica che infatti non ho mai visto sul palcoscenico, però anche a leggerlo potevo vivamente immaginare ed è uno dei pezzi teatrali che ritengo proprio fantastici anche per i messaggi e i contenuti del pezzo. Romolo è l'ultimo imperatore dell'Impero Romano, che trascorre le sue giornate ad allevare galline mentre l'esercito dei Germani si avvicina sempre di più. Le brutte notizie di guerra non lo smuovono, preferisce ridere della situazione deplorevole della sua corte, per esempio vende i busti di marmo dei filosofi e paga i suoi dipendenti con le foglie d'oro della sua corona d'alloro. Ma fra tutto questo rimane simpatico nel suo sforzo di parlare in verità scomode, e la sua saggezza che si intravede attraverso la corazza non curante. Dice per esempio: lo Stato preferisce chiamarsi patria quando si prepara per un genocidio. O dice anche: la guerra è un peccato, lo era sempre stato, anche quando inventarono la mazza. Se adesso introduciamo anche la mobilitazione totale, arriviamo alla blasfemia. E alla fine che capiamo l'imperatore? È diventato Cesare per far fallire l'impero romano, diventato troppo grande, troppo assetato di sangue, troppo autocratico. Il suo scopo è far vincere i Germani, sacrificarsi per dare una possibilità ad un rinnovo più degno. A sua sorpresa però Odoacer, il principe dei Germani, è anche lui avicoltore, è venuto per far governare Romolo invece. Durante la guerra il suo popolo si è dimostrato crudele, assetato di potere su tutto e tutti, pertanto voleva assoggettarli alla saggezza di Romolo. I due devono fare i conti con le loro illusioni e continuare con la coscienza di un futuro tutt'altro che roseo. Oltre ai riferimenti alla Seconda Guerra Mondiale e la disillusione della politica, in un'altra chiave di lettura possiamo anche dire che Romolo e Odoacer sono due burattini che pensano di poter fare i burattinai. Forzano la storia pensando di aver calcolato tutto, ma non hanno il potere di cambiare né il mondo, né la natura umana, né la realtà. Ridiventano burattini un po' tristi. Ma prima di lasciarvi invece vorrei chiudere con un po' di radiodramma, un po' in chiave un po' più leggera, diciamo, tirata dal prezzo. Romolo. Beh, mi devi dire quando cominciamo. Adesso. Cara. Ma posso fare una domanda? Ma Romolo era Romolo Augusto, l'ultimo imperatore romano, quello che paradossalmente si chiamava Romolo e poi anche Augusto. Ci sono alcuni ascoltatori che non Splendore, Splendore e Crisi di Roma riuniti per suo imperatore. Evidentemente era distratta e quindi non ha sentito la presentazione di Romulus der Grosse di Dürrenmatt. Mi dispiace, vedi, sono distratta stasera. Vabbè, vi lascio da dramma. E vabbè. Romolo. Possiamo cominciare? Sì. Dici? Sì. Attenzione. 1, 2, 3. Salve. Sono le Idi di Marzo? Sì, signore. Oggi sono le Idi di Marzo. Agli ordini Cesare. Una data storica. Secondo la legge è oggi il giorno in cui devo pagare i funzionari dipendenti del mio impero. Vecchia credenza popolare. Si dice che serva perché il Cesare non venga assassinato. Chiamate il ministro delle finanze. Il ministro delle finanze è fuggito, altezza. Fuggito? Con l'erario, Cesare. Ma perché? Era vuoto. Il ministro delle finanze, infatti, spera di poter celare così il completo fallimento delle finanze statali. È un uomo saggio, sì. Chi vuole evitare un gran scandalo fa meglio se ne organizza uno più piccolo. Distinguiamolo col titolo di Redentore della Patria. Ecco. E così abbiamo chiuso l'angolo del librangolo. Librangolo. Grazie. E questa sera siamo un po' a rovescio, perché invece di cominciare come al solito modo con Mary D e George Rand che vi saluta, cominciamo a rovescio. Abbiamo cominciato con il librangolo che di solito ci accompagna verso la chiusura. E però questa sera abbiamo avuto un po' così di avvenimenti, di eventi che ci hanno scombussolato il palinsesto. E vabbè, siccome c'era Liliana Gurina con noi e ancora sta nei paraggi e siamo un po' così legati. È il Bruxellando artistico che segue il così, che se, scusa, i così, che segue i ritmi dell'arte. Però vedo qui alla mia destra. Ora, visto mentre aspettiamo che Mary D ritorni e ci faccia sapere cosa fa, cerchiamo di capire se in realtà serve, e siamo pronti anche con la pagina jazz. Ma voi sapete, il nostro, i nostri grandi Paolo e Stefano che ci accompagnano sempre con la loro musica, magari anche stasera riescono ad offrirci qualcosa di molto interessante. Devo già dire, anzi lo saluto, ciao Stefano. Ciao, ciao, io ho aperto la trasmissione tanto per dire che oggi siamo un po' a rovescio insieme. Che bello. Ma io, infatti io ero all'inizio fuori e io devo dire che mi ascolterò questa puntata per sentire come avete aperto, che bello. Così io mi relego alla fine e piano piano scompaio nel nulla. Una bella, Piano piano scompaio nel nulla. Vabbè, Paolo questa sera non c'è. No, stasera sono solo, Devo fare un po' di teatro da solo. Aia, cercherò di accompagnarti se posso in qualche modo. Ma sento dalla regia un suggerimento che c'è un vuoto, quindi forse un nuovo tappeto. Sì, qui già mi comincio a risentire un po' più nel mio mondo. Grazie a Daniele per la sua sempre impeccabile presenza, in questo caso e collaborazione musicale. Qui è la nostra sigla e quindi, come dicevo prima, cercheremo di stasera di percorrere insieme questa idea di teatro legato al jazz. E io, quando ho cominciato a riflettere su questo, ho detto: bah sì, che cosa si può fare? Cosa c'è del jazz? jazz, beh, il jazz è un po' sta dappertutto, noi poi lo mettiamo dappertutto, sì, come il sale, quindi va bene. Come no? Il sale della nostra vita che ci aiuta e ci accompagna. E allora la prima idea che mi è venuta è un po' quella del jazz nel teatro musicale, musical. Ecco. Ah sì. E allora andiamo subito sul musical. È un musical, c'è un musical molto famoso degli anni 60, quindi un musical così un po' di diverso tempo fa, che è stato reso famoso da una, anche da una interpretazione del tema principale, che è poi quello che dà il titolo, fatta da un grandissimo jazzista. Parliamo in questo caso di Hello Dolly. Lo ricorderete tutti, suona bene, e il famoso jazzista naturalmente è Louis Armstrong, che duetta nel film, perché poi più tardi fu fatto anche il film, con Barbara Streisand. È quello che non faremo ascoltare, ma prima di ascoltare il pezzo, che sicuramente è arcinoto ed è anche molto allegro, un po' questo era l'idea per cominciare. Il divertente è che Louis Armstrong inizialmente chiaramente non c'entra assolutamente nulla con il musical, ma nel 1963, alla fine del 1963, prima che esca il musical, che è uscito nel 64 a New York, gli viene chiesto di cantare uno dei temi principali, appunto Hello Dolly, per lanciare il musical. E così inaspettatamente, in realtà, oltre ad essere un eccellente lancio, gli effetti che si hanno da questa canzone che lui incide sono anche quelli di rilanciare lui stesso, perché lui era sempre il grande re del jazz, però era un po' appannato nella fama, no? Parliamo di metà anni 60, l'era beat, no? Comincia il pop, Beatles, Rolling Stones, insomma siamo un po' su altre cose. Invece questo diventa un hit negli Stati Uniti nel 64 e gli vale anche il Grammy in quell'anno come migliore canzone dell'anno, rilanciandolo poi per tutto anche il periodo successivo come sempre verde, lo è sempre stato. Insomma, questo è stato un po' il regalo di Natale del 63, se vogliamo, per lui, che lo ha portato poi anche ad incidere. Adesso lo sentiamo e riconoscete subito la sua entrata, in cui si presenta come Louis Armstrong, Hello Dolly. Well, hello. Look who's here. Dolly, this is Louis. Hello, Louis. Dolly, it's so nice to have you back where you belong. I am so glad to be back. Are you looking swell? Thank you, Louis. Dolly, I can tell. Does it show? Dolly, you still glowing. You still growing, you still going strong. I feel the room sway and the band play one of our favorites. So it was my favorite. Show some snap, fellas. Yeah. Find an empty love. Yeah. Dolly will never go away. Siamo stati subito proiettati nell'atmosfera del musical. Bellissimo. No? Il musical Broadway puro, non c'è dubbio, con questa grande interpretazione di Louis Armstrong e Barbara Streisand, in questo caso tratta appunto dal film del 69, in cui Louis Armstrong, tra parentesi, naturalmente come previsto, fa il direttore di un'orchestra jazz, in cui Barbara Streisand va, perché frequenta quel locale, allora gli dice: ah, ci rivediamo ancora, hello. E per questo lo saluta come lui fa un po' se stesso in questo caso nel film, in questa parte, insomma. Louis Armstrong, fra l'altro, a me non so perché, però ogni volta che lo vedo in TV mi ricorda Fernandel. Il sorriso di Louis Armstrong mi ricorda molto quello di Fernandel. Sì, ha un'espressione straordinaria che sprizza gioia, sprizza felicità tutto il tempo. Bene, passaggio adesso, siamo passati al musical, quindi che cosa altro ci può essere di teatro? In realtà c'è anche del teatro più colto, se vogliamo, del musical, che è l'opera. C'è l'opera, certo. In cui c'è un'opera in particolare in cui si mischia molto il jazz. Si mischia molto il jazz perché è un'opera fatta di neri, perché è una contaminazione del suo autore. Parliamo di Porgy and Bess. Porgy and Bess è un'opera di George Gershwin. Parliamo del 1935, è un'opera sicuramente straordinaria, un'opera che viene considerata come di un'opera popolare. Questo era il concetto che lui aveva in mente, in cui sono tutti protagonisti neri. Anzi, sì. anche abbastanza sfortunati, direi, perché la situazione sì. è abbastanza tragica, e in particolare Porgy è una persona che non ha più le gambe, quindi si trascina sul palco con un carrettino, quindi è abbastanza straordinaria come situazione, e ci sono delle piccole gemme all'interno dell'opera che sono straordinarie. Ora, il nostro programma continua a essere un programma di jazz, quindi io vi farei ascoltare molto volentieri l'opera in quanto tale, magari lo faremo un'altra volta con degli special, sicuramente vi piacerebbe molto. Quindi ho scelto due pezzi in questo caso, che sentiremo uno dopo l'altro, che sono significativi, ma sono in un'interpretazione jazz, perché chiaramente Gershwin in molte occasioni è stato utilizzato da jazzisti. Ora, il pezzo che sentiamo è famosissimo, è Summertime, è una ninna nanna all'inizio dell'opera, conosciutissima in varie versioni. Sì. In questo caso la versione che sentiamo è di Al Jarreau, che suona qui con dei grandissimi musicisti come Marcus Miller, Joe Sample, Steve Gadd, Philip Saiz, ecco, vedete tanti, e che ha la sua sfoda e la sua voce straordinaria, come sentirete tra pochissimo. Summertime, nell'esecuzione e interpretazione di Al Jarreau in un disco del 94, Tenderness. Summertime rientra in questo nostro discorso di Porgy and Bess, e come vi avevo promesso io ho un altro pezzo da Porgy and Bess che nell'opera originale è cantato da Porgy, che appunto abbiamo detto non è proprio nella situazione più fortunata, però no. È un valore positivo nell'opera, perché quanto gli capita di tutti i colori, lui è quello che certo. mostra più rispetto a spacciatori, a prostitute che sono in quest'opera, è quello che si così che mantiene una sua etica, un suo comportamento di vari tipi. Questa prossima canzone che vi faccio ascoltare, anche se questa è una versione musicale, Porgy dice che in fondo si vive bene anche in povertà. Dice I got plenty of nothing and nothing's plenty for me. Ho molto di niente e niente è molto per me. Ecco, è chiaramente una formula per dire che può continuare a vivere così. Lui è innamorato di Clara, la cosa non andrà proprio a buon fine, ma insomma chi va a vedere l'opera, che dura quasi 3 ore, poi lo saprà. Però lo stesso mantiene, almeno in questa parte dell'opera, questa buona così, questo buono spirito. L'esecuzione che sentiamo è un'esecuzione del 91 di un arrangiatore pianista molto importante, si chiama Dave Grusin, e con lui anche ha uno stuolo di grandi musicisti: Chick Corea, Lee Ritenour, Gary Burton, Eddie Daniels, John Patitucci, Dave Weckl. Scusate se vi così se vi faccio questa lunga lista, ma ognuno di questi meriterebbe sicuramente uno spazio. Sono tutti dei grandi. Però l'esecuzione che voi sentirete appunto è una interpretazione di I've Got Plenty of Nothing. Dave Grusin and Friends, I've Got Plenty of Nothing, da questo disco del 91, Gershwin Classics. E Gershwin, perché stiamo parlando di Gershwin, stiamo parlando di Porgy and Bess, stiamo parlando di teatro e jazz, ecco come si uniscono tutte queste cose. E adesso ci avviamo all'ultimo pezzo di oggi, sempre manteniamoci su Gershwin, direi, visto che mi pare che riscuota un certo successo, ma muoviamoci da Porgy and Bess. Gershwin è vissuto poco, è vissuto solo 39 anni, ma in questo breve periodo ha scritto delle cose straordinarie, sia in termini sinfonici che in termini operistici e anche in termini musical. Ha scritto moltissimi musical George Gershwin, in cui il fratello Ira Gershwin era sempre colui che scriveva i testi. È il caso anche per questa celeberrima song, American Song, questa canzone che è diventata uno standard, tratta anch'essa da un musical. Il musical si intitolava Strike Up the Band, ma in realtà poi la canzone è quella che è diventata famosa per conto suo. La canzone si intitola The Man I Love, e questa esecuzione che oggi abbiamo scelto per voi è un'esecuzione con degli artisti straordinari, perché è tratta da un disco di Herbie Hancock, grande pianista, e la cantante, l'abbiamo già sentita, è Joni Mitchell. Sentirete che cosa riescono a fare questi artisti quando suonano insieme, e nel sottofondo sentirete anche un bellissimo sax di One Shot. The Man I Love. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. And in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say. stay away. Maybe I will meet him on a Sunday, maybe on a Monday, maybe not. Still, I'm sure I'll meet him one day, maybe Tuesday. Will be my good news day. He'll build a little home meant for two. Beh, quale intensità questa voce per una canzone in cui una donna aspetta l'uomo della sua vita e non sa se verrà, ma se verrà certamente farà di tutto per tenerselo. Ecco, questa intensità, queste che sono chiaramente canzoni, ecco, d'amore, scritte in un contesto spesso allegro o drammatico, nel caso di Porgy and Bess, ma questo ovviamente era un musical, era ben più allegro con lo spirito, poi tirate fuori dal contesto, in realtà diventano delle gemme che possono così stare sui propri piedi e durare in fondo 70 anni senza perdere assolutamente lustro. No, bene, questo è infatti incredibile come questa musica sia ancora, dia ancora le stesse sensazioni che forse dava quando è stata scritta, insomma, è ancora piena di forza e di energia, incredibile. Sì, direi un arrangiamento fatto da grandi artisti, come in questo caso appunto Herbie Hancock, con sotto un sax di One Shorter, possono rendere moderna questa canzone che sicuramente nei contenuti rimane attuale, ma anche nel modo di essere fruita ci appare assolutamente così contemporanea. Bene, speriamo di avervi un po' come al solito incuriosito, magari oggi portandovi nel teatro con il jazz insieme a, soprattutto con George Gershwin, ma non solo, e naturalmente speriamo di ritrovarvi tutti presto per quest'angolo e avere altre proposte così curiose e soprattutto piacevoli per passare insieme questi minuti dedicati al jazz. Grazie e a presto. Nessun dubbio che si possa. Non credo nelle divise, né tanto meno negli abiti sacri, che più di una volta furono pronti a benedir massacri. Non credo ai fraterni abbracci che si confondono con le catene. Io credo soltanto che tra il male e il bene è più forte il bene. Bene, bene, bene, bene. Io penso positivo perché sono vivo. Ed eccoci nuovamente qui su queste note fantastiche di Jovanotti, che ci riporta sicuramente all'estate, lo speriamo, anche se qui in Belgio l'estate non c'è quasi mai. Benissimo, un po' di agenda, perché beh, siamo sempre a Bruxellando, quindi. Allora, sapete che qui in Belgio c'è questa bella abitudine, soprattutto a maggio, di dare la possibilità a quanti non conoscano del patrimonio culturale del paese di poter accedere a 167 musei. Tutto questo avverrà quest'anno nel weekend tra il 16 e il 17 maggio, quindi sabato in notturna. oppure soltanto domenica in giornata. Pensate, ci sono 10 musei dell'Università Libera di Bruxelles che lanciano una sfida. Riflettiamo sui colori, il 16 maggio dalle 17 alle 22. Tre musei invece che vorrebbero aprono praticamente gratuitamente le loro porte ai visitatori, sempre tra le 17 e le 22. Quattro siti turistici, di cui un museo, partecipano invece alla giornata Porte Aperte Venea Or Gauche. Quindi sicuramente si aspettano insomma piacevoli sorprese. Ed infine 7 musei di tournée offrono l'accesso gratuito alle loro collezioni 16 e 17 maggio tra le 9.30 e le 12.30, le 14 e le 17.30. Inoltre, in collaborazione con la Federazione Belga dei Véhicules Anciens, quindi delle macchine d'epoca, il Servizio del Patrimonio Culturale ha raccolto 12 musei e collezioni private di veicoli d'epoca, quindi di auto d'epoca, tutte sul tema dei colori. Quindi credo che sarà una variopinta carrellata insomma di vetture non solo d'epoca, quindi sicuramente belle da vedere, ma anche estremamente colorate. Dove? Dappertutto in Vallonia. E quindi insomma per quanti volessero saperne di più, abbiamo un unico riferimento, che è un numero di telefono 0800 200 00. Questo ricordo è valido soltanto per il weekend 16-17 maggio. George. Son del sur o son del sur? Ma sai, a volte tante parole possiamo anche lasciarle all'immaginario, non lo so. Beh, scegli tu la versione. No, la versione si sceglie da sola, perché essendo il Festival Flamenco 2009, ah, ok, già si dice son del sur, sì, non son. Ed è l'arte del gesto raffinato, quella del flamenco, dei ritmi che stordiscono, delle voci penetranti. Il flamenco ha maturato durante generazioni senza mai perdere nulla della sua superbia, anzi della sua superba capacità. La superba fa rima con la superbia, forse. La superbia è l'arte di coloro che sono superbi. È un'arte anche quella, secondo me. Comunque, a proposito di Romolo, Tarquinio, quindi così siamo in tema. Tarquinio Prisco, sì. Il superbo, altrimenti noto. Tarquinio e superbo, tutti e due erano. Al contrario, comunque, dicevo, il flamenco è sempre fermamente legato al suo territorio andaluso. Come si fa a scordare l'Andalusia in Spagna? Per chi c'è stato, per chi non c'è stato è solo sognata. Però è vero che qui a Bruxelles il flamenco è molto conosciuto, insomma ha conosciuto negli ultimi anni una riviviscenza. Chi è che non conosce il più grande ballerino di flamenco, almeno fino a qualche anno fa, adesso mi sono perso. Ballerino di chiama? Flamenco. Che si chiama? Gioacchino? Gioacchino il flamenco. Joaquín Cortés, va bene, non importa, se non sapete chi è Joaquín Cortés, passiamo avanti. Chiedete a Bruxellandopedia. L'ignoranza proprio si sparge qua come una macchia d'olio. Senti che odore. Soy una ballerina del flamenco. Soy una ballerina del flamenco. Sì, questa è una citazione da un film molto carino da alcuni anni fa. Il ciclone. Quella sì che era. Dai, vabbè, proseguiamo. Allora, insomma, questa volta nel Flamenco Festival 2009 si svolge in una bella situazione ambientale, che è l'Istituto Cervantes della Giunta di Andalusia. Il Festival del Suono del Sud, per il terzo anno consecutivo, dà un'idea della diversità e del vigore attuale del flamenco attraverso concerti, spettacoli e proiezioni. Per la prima volta una strada danzante, ultra festiva. Insomma, ragazzi, dal 14 maggio, quindi ormai ci siamo a ridosso, e fino al 26 giugno al Palais des Beaux-Arts, date un occhio, perché c'è il Suono del Sur, il Son del Sur o Suono del Sud. E se volete più informazioni, beh, è al Beaux-Arts, quindi www.beauxarts.be. Invece, al Palais des Beaux-Arts ci sarà la nona edizione dei Sapori Italiani, che si annuncia gioiosa, barocca e soprattutto ovviamente graziosa. Cosa bolle in pentola? Beh, innanzitutto l'indimenticato Pinocchio. Visto che parliamo di burattini, ritorna nuovamente Pinocchio. I fasti dell'arpeggiata, una folla di animazioni e datili e soprattutto un ballo in maschera. Il 27 maggio sarà quindi effettivamente il Beaux-Arts consacrato a quelli che sono i nostri colori, i colori italiani. Praticamente ci sarà un insieme di esposizioni che sarà possibile ammirare, e vi ricordo che l'ingresso è gratuito a Beaux-Arts Studios. Questo avrà luogo però soltanto domenica 17 maggio tra le 10 e le 18, e si potrà ascoltare, per quanti amano la musica classica, anche il meglio della musica classica italiana, Roberto Giordano, Puccini e ovviamente tutto ciò che riguarda l'arpeggiata. Quindi sicuramente un'apoteosi trionfale della primavera torinese. Questo perché, come voi saprete, nel 2011, quindi ci stiamo preparando a quello che è il 150esimo anno della riunificazione dell'Italia, e quindi insomma si cerca di ricordare questo evento. Già avevo parlato della mostra di Bellotto che aveva avuto luogo proprio al Museo delle Belle Arti, e sulla scia di questo evento la Regione Piemonte ha organizzato Le Printemps Turin, quindi la primavera di Torino, che vuole essere ancora un omaggio, facendo riferimento a quella che è la collezione dei pittori fiamminghi raccolti presso le pinacoteche dei Savoia, un omaggio quindi al Made in Italy, una sorta di gioiellino che comunque ancora ci accompagna. Quindi sicuramente non è solo la Torino della Fiat, ma è la Torino delle luci, dei pittori, che potrete ammirare tra il 12 e il 24 maggio al Palais dei Beaux-Arts. Quindi, faccio insomma, festa per 30 giorni al mese. Eh beh, è ricco il calendario bruxellois delle attività italiane. Sorprese. Assolutamente. Natale, Pasqua e forse Ferragosto. E sempre al Beaux-Arts, immaginate invece United Artists of Italy. Attraverso 150 foto, 22 fotografi italiani danno un'immagine sorprendente, l'insieme intima della scena artistica italiana della seconda metà del XX secolo. Si tratta soprattutto di ritratti di artisti, di galleristi, di architetti, di designers, di scrittori, e i fotografi annunciano ciascuno a loro modo quelle che sono i loro punti di vista, le loro immagini, le loro percezioni rispetto a questo variegato mondo e contesto socioculturale dell'Italia del XX secolo, focalizzando l'attenzione tra quella che è l'arte povera e la trans avant-garde. Poi magari sarebbe curioso indagare il concetto e il significato di questo trans avant-garde. Sì, mi spieghi che vuol dire? Dai. La trans avant-garde è la parte è il momento successivo all'avanguardia. Quindi è il momento di transizione? Sì, sì, è il momento di transizione, ma il momento successivo è l'avanguardia, la transavanguardia, che va oltre. Dopodiché i ruoli cominciano a ritornare. Oh. Però sono sempre definizioni che vengono date al momento. E poi così via. Ovviamente cambiano. On the air. Poi cambiano, vengono rivalutate, vengono cambiate. Le transavanguardie diventano non avanguardie, ma poi diventano mai dei classici. Insomma, dipende. Insomma, come il concetto è labile. Il concetto è labile, perché oggi si doveva parlare di teatro. Abbiamo parlato anche di teatro, anche con Eano Ugolini prima. Beh, e per esempio uno come Tadeusz Kantor, che è un grandissimo, io vorrei invitare lo conosciamo tutti a leggervi qualcosa di Tadeusz Kantor, che è stato un grandissimo artista polacco ma nato sotto l'impero austro-ungarico. Ah, pensavo fosse ungherese. No. Ah. Ed è della stessa generazione di altri due piccoli personaggini che forse conoscete, che si chiamano Eugen Ionesco e Samuel Beckett. Non ci dicono proprio nulla, guarda. Esattamente, come immaginavo. Ecco, sono la stessa generazione. Siamo tutti lì ad aspettare Godot. Esatto. E mentre Beckett e Ionesco creano, comunque sono gli artefici del teatro dell'assurdo, Tadeusz Kantor negli stessi anni fa un altro tipo di sperimentazione. È assurdo. No, è assurdo in sé per sé, però fa un altro tipo di sperimentazione che è molto bella. E assomiglia in qualche modo, riprende in qualche modo, perché sicuramente conosceva lo Stanislavski di origine russa, anzi il russo Stanislavski, che aveva studiato questo metodo che poi è stato adottato all'Actor Studio. Ecco. Cosa faceva Kantor? Kantor, anche lui, chiedeva ai propri attori di immedesimarsi nei personaggi, ma non solo. Una delle sue performance più interessanti era quella di mettere proprio dei manichini e far giocare un ruolo attivo ai manichini. Beh, i manichini devono essere animati da qualcuno. No, i manichini erano fermi, ma avevano una loro reazione proprio per le azioni che venivano poste dagli attori. Quindi era molto bello. Tadeusz Kantor, un grandissimo, però si sa poco di Tadeusz Kantor. Possiamo indagare? Comunque lui, ecco, non era avanguardia, ma era transavanguardia. Ah, però ti ringrazio di questo tuo esempio molto. Prego. Ma so che Fiordaliso c'ha qualcosa da raccontarci, ma non ce lo vuole raccontare. Che sì, ancora, che ce lo racconta. Hai ancora un minuto. In un minuto ce la faccio. La, il riciclaggio è un'arte. Ecco, ho detto tutto, no? Cioè, e questo ci è dimostrato dai, da studenti di arte che espongono le loro creazioni fatte di rifiuti, ma non vi dovete mica immaginare dei rifiuti di quelli puzzolenti e poco guardabili, diciamo, da rifiuti di pezzi di tessile eccetera eccetera, alla stazione centrale di Bruxelles, entrata gratuita, è aperto fino al 15 maggio, dalle 8 fino alle 18 e durante il fine settimana dalle 10 alle 20. È molto importante quello che dici sul riciclaggio, perché io almeno una volta al mese mi sveglio, mi guardo allo specchio e mi dico: ma ti rendi conto che tu sei fatto di cromosomi riciclati? Ma perché riciclati? Perché io sono fatto di cromosomi riciclati come tutti noi. Siamo tutti riciclati, non è che abbiamo cromosomi veri. Abbiamo cromosomi che vengono da uno e dall'altro, ce li hanno dati e erano già riciclati. Quindi siamo degli oggetti riciclati noi stessi. Nasciamo riciclati. Ce ne eravamo e ce ne ritorneremo. Sì, ma anche se nasciamo con materiale riciclato, mica con materiale nuovo. Incredibile. Bah. George lo chiameremo Iron Man. Esattamente. Bene, allora volevo peggio con la pioggia che c'è. Voglio dire, no? Chiudiamo magari la parentesi dell'azienda, a parte che George magari potrebbe ancora averne qualcuno di cui non ricordo. Festival della gastronomia culinaria. Pensate che 16 chef. Lo so, ho finito, mi servono 30 secondi. 16 ristoranti che insieme non fanno 25 stelle alle guide Michelin hanno immaginato un percorso di sapori che offrono la possibilità di gustare, secondo loro, l'arte culinaria ad un prezzo veramente irrisorio. 50 exposition culinaria e anche la possibilità di incontrare più di 50 artigiani della gastronomia. Quindi sapori tradizionali, ovviamente riciclati, come direbbe George, con gli ingredienti più raffinati. 7 atelier, gustare, sentire, guardare. Culinaria sveglierà ai più curiosi amanti della cucina quelli che sono ovviamente tutti i sensi legati al buon cibo. Quindi tutto ciò avrà luogo dal 15 al 17 maggio, dove? Al Parco del Cinquantenario. Per quanti volessero sapere come riservare, ovviamente culinariasquare.be ed il numero è 02-661-3370. E molto rapidamente si recita il Don Juan al Teatro Le Public dal 19 maggio al 27 giugno, un'opera di Molière, insomma, che non ha bisogno di presentazioni. Invece un'ultima cosa che vi dico è Scientastica, è un'esposizione interattiva sulla scienza e i sensi, non mi veniva, cercatelo su internet, scientastic.be. E l'indirizzo è comunque Boulevard Anspach, nella stazione di metro Bourse, sottosuolo, sì, al livello meno 1. Insomma, è molto interessante perché per i bambini e anche per gli adulti. E devo dire che questa cosa è molto carina, perché ci sono esperimenti da poter fare, ci sono cose interessanti, e con questo io credo che si possa anche Daniele chiudere. Daniele scalpita. Cari amiche, cari amici, vi ringraziamo per questo lungo ascolto di Brussellando questa sera. Un abbraccio, vi auguriamo una splendida settimana e ci ritroviamo tutti insieme, Georges Laurent, Stefano, speriamo ugualmente con Paolo, Fiordaliso e Daniele, martedì prossimo è dalle 21 meridì. Grazie, alle 22, buona serata a tutti, ciao. Avete ascoltato Brussellando, a cura della redazione culturale di Radio Alma. Deux heures.